quando compiere la volontà di Dio diventa peccato. Leggiamo tre brani della Scrittura, nei Vangeli di Matteo, Marco e Giovanni. O in quel tempo Gesù attraversò di sabato dei campi di grano, e i suoi discepoli ebbero fame, e si misero a strappare delle spighe e a mangiare. I farisei, veduto ciò, gli dissero: «Vedi, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame, egli insieme a coloro che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma solamente ai sacerdoti? O non avete letto nella legge che ogni sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Ora io vi dico che ci è qui qualcosa di più grande del tempio. Se sapeste che cosa significa «voglio misericordia e non sacrificio», non avreste condannato gli innocenti, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Matteo 12, 1 a 8. O poi, essendo passati all'altra riva, i discepoli vennero nella regione di Gennesaret. E gli uomini di quel luogo, avendo riconosciuto Gesù, diffusero la notizia per tutta la regione circostante. E gli presentarono tutti i malati, e lo pregarono che potessero toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccarono furono perfettamente guariti. Allora gli scribi e i farisei di Gerusalemme vennero da Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli anziani, poiché non si lavano le mani prima di mangiare?» Ma egli rispose e disse loro: «E voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione?» Matteo 14, 34, 15, 1 a 3. O a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, ci è una vasca, chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che, quando l'acqua è mossa, mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». In quell'istante quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: «È sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi gli domandarono: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio». L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Gesù rispose loro: «Il Padre mi opera fino ad ora e anch'io opero». Per questo i giudei, più che mai, cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Giovanni 5, 2, 18. I tre brani della Scrittura evidenziano un fatto: sia Gesù sia i discepoli trasgredivano, oltre ad alcune tradizioni, una delle leggi più importanti degli ebrei, il sabato ebraico. L'Evangelista Giovanni dichiara esplicitamente che per questo i giudei cercavano di uccidere Gesù. Tale trasgressione infatti comportava la pena di morte. Gesù però non ha mai commesso un peccato. Come spiegare allora l'atteggiamento dei giudei riguardo alla presunta trasgressione di Gesù? Potevano i giudei accusare Gesù di una colpa inesistente? Impossibile. Accusando qualcuno, Si parte sempre da uno spunto di verità. Diversamente, l'ingiustizia dell'accusa sarebbe evidente. Inoltre, da una lettura attenta, notiamo che Gesù non ha risposto ai farisei che sbagliavano ad accusare i suoi discepoli di trasgredire la tradizione. Anzi, sembra che la risposta di Gesù tenda a giustificare i discepoli. Quel «e voi, perché trasgredite il comandamento di Dio» è molto significativo. Perché i discepoli, nonostante che trasgredissero delle regole, non erano colpevoli e, pertanto, secondo Gesù, non erano da condannare? È possibile giustificare chi trasgredisce la legge di Dio? La risposta che diamo a queste domande evidenzia il tipo di vita cristiana che stiamo vivendo e la qualità della nostra relazione con il prossimo. Possiamo affermare categoricamente che il peccato è la trasgressione della legge di Dio. Leggiamo nella prima lettera di Giovanni: chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. 1 Giovanni 3:4. Il peccato non consiste dunque tanto nel violare una tradizione o una morale collettiva o una propria etica, quanto nel trasgredire ciò che Dio ha comandato. In effetti, come dirà Paolo, senza legge non vi è neppure trasgressione. Romani 4:15. Dunque, è impossibile trasgredire una legge, se questa non esiste. La liceità di una data azione è, infatti, determinata dalla legge. Il popolo di Israele aveva ricevuto da Dio una legge, in grado di guidarlo in ogni situazione civile, morale e cultuale. Dio aveva dato al popolo, per quello che riguardava il culto, delle prescrizioni, che ne curavano anche i minimi particolari, affinché esso potesse avvicinarsi a lui in modo degno. Tra queste leggi, il riposo del sabato costituiva per il popolo di Israele una legge civile e, inoltre, una delle più importanti dal lato spirituale. Ecco cosa leggiamo nella legge di Dio. O lavorerai 6 giorni e in essi farai il tuo lavoro, ma il 7° giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero che sta dentro le tue porte, affinché il tuo servo e la tua serva si riposino come te. E ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e con braccio steso. Perciò l'Eterno, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno di sabato, Deuteronomio 5:13-15. Per millenni, Israele aveva osservato il sabato. Anzi, era talmente zelante nell'osservare il giorno del riposo che i conduttori del popolo, scribi e farisei, avevano aggiunto ulteriori regole affinché il sabato non fosse trasgredito. Da un punto di vista, ciò poteva anche essere lodevole. Col passare del tempo, però, gli scribi e i farisei avevano travisato il principio di Dio. Pensavano che si dovesse sempre osservare la legge in qualsiasi situazione. Proprio per questo Gesù li rimprovera mettendo in chiaro che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. L'insegnamento di Gesù era questo: Dio vi ha dato una legge per il vostro benessere fisico, morale e spirituale, e non viceversa. Cioè che l'uomo, a discapito del suo benessere, debba osservare la legge. La legge che Dio vi ha dato non è fine a se stessa. Essa è stata data affinché viviate bene la vostra esistenza terrena. Questo principio, messo in evidenza da Gesù, si cala con prepotenza nella quotidianità della nostra vita cristiana. Da sempre, la legge di Dio è stata oggetto di varie interpretazioni. Lo dimostrano le numerose correnti religiose, che si rifanno tutta alla parola di Dio, valdesi, battisti, anglicani, carismatici, chiese dei fratelli. Se ciò non bastasse, anche all'interno della stessa confessione di fede, vi sono fratelli e sorelle che ne danno interpretazioni diverse. La parola di Dio non è dunque interpretabile a senso unico. Come comprendere quale sia l'interpretazione giusta della volontà di Dio? In genere, si è convinti che l'interpretazione giusta sia la propria. Dobbiamo però, onestamente e subito, riconoscere che, anche il nostro fratello è convinto della giustezza della sua interpretazione. Se sono convinto con convinzione della mia onestà e sincerità, devo pure riconoscere che il fratello è convinto a sua volta, quanto me, della sua onestà e sincerità. Se il mio presupposto non è questo, io pecco di malafede. Sto partendo con presupposti non caritatevoli. Come risolvere un tale quesito? È possibile avere una risposta sicura? Sì. La soluzione non consiste nell'indagare riguardo chi abbia ragione, ma, altresì, nell'osservare gli effetti dell'interpretazione che noi diamo alla volontà di Dio. Gesù ha affermato chiaramente che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò, ogni legge, ogni regola, ogni comandamento che non produca benessere alla persona è da ritenersi sbagliata. Questo può produrre, in certi cristiani, uno smarrimento, soprattutto quando si tratta di compiere la volontà di Dio. Dobbiamo ammettere e riconoscere che si può sbagliare anche nel compiere la volontà di Dio. O l'ordine di Dio è che noi preghiamo, possiamo però pregare per il nostro egoismo, rendendo così non più lecita la preghiera. O l'ordine di Dio è di evangelizzare, ma può succedere di evangelizzare per invidia o per metterci in mostra. O l'ordine di Dio è leggere la sua parola, ma se si legge solo per acquisire nozioni intellettuali, l'osservanza di tale comandamento diventa peccato. O l'ordine di Dio è di riprendere il fratello, ma facendolo per rancore si pecca. O l'ordine di Dio è di... L'elenco potrebbe essere molto lungo. Questi esempi sono tuttavia sufficienti per dimostrare che compiere la volontà di Dio diventa peccato quando non si adempie allo scopo per cui la legge è stata data. Gesù disse ai giudei: «Voi investigate le scritture perché pensate d'aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per aver la vita». Giovanni 5, 39-40. I giudei leggevano ogni giorno le scritture, ma non si rendevano conto che esse erano state date per suscitare in loro la fede in Gesù. Per questo Paolo scrisse ai Galati: «Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede». Galati 3:24. Nello stesso modo Dio ha promulgato una legge morale, civile e religiosa non tanto fine a se stessa, quanto per il bene dell'uomo. Ogni regola data dall'uomo che non raggiunga questo fine è da considerarsi illecita, peccato. Il peccato non consiste nella legge stessa, perché la legge è santa, giusta, buona, Romani 7:12, ma nel modo in cui questa legge viene impugnata. Come scriverà l'Apostolo Paolo a Timoteo: «Noi sappiamo che la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo». 1 Timoteo 1:8. E l'uso legittimo che rende legittimo l'uso della legge. Ciò che sfugge a tanti credenti è che la legge è una regola che deve condurci alla regola suprema, la libertà. Per libertà non si intende licenziosità oppure libertà di compiere ogni cosa, ma che la legge è una regola che, una volta imparata, ci conduce in un cammino libero da pesi, da sensi di colpa, da angosce e dalla potenza del peccato. Questo è ciò che Gesù voleva intendere quando disse: «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Giovanni 8:36. Come dunque realizza la libertà il cristiano? Come può essere liberato il Figlio di Dio dalla schiavitù della legge? Paolo lo ha spiegato molto bene: «Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge». Galati 5:18. La vita cristiana normale è condotta dallo Spirito Santo. Se non è controllata dallo Spirito Santo, è controllata dalla carne e quindi dal peccato. Non ci sono alternative: o siamo condotti dalla carne o lo siamo dallo Spirito. Che cosa significa essere condotti dallo Spirito Santo? Vuol dire trasgredire la legge di Dio? No. Chi cammina per lo Spirito Santo adempie la legge, poiché chi non osserva la legge commette peccato. Lo Spirito Santo, per la sua caratteristica intrinseca di santità, porterà sempre il credente ad osservare la volontà di Dio. In caso contrario, dobbiamo mettere in discussione il fatto che sia veramente lo Spirito Santo colui che ci guida. Lo Spirito Santo non condurrà tanto il credente ad osservare il legalismo della legge, quanto all'adempiere lo scopo per il quale essa è stata data. Ecco che, allora, il credente comprenderà che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Egli comprenderà che la legge è uno strumento per il bene dell'uomo e che ogni regola va calata nel contingente umano. Compreso questo, le parole di Gesù avranno un significato più diretto. Se sapeste che cosa significa «voglio misericordia e non sacrificio», non avreste condannato gli innocenti, sì. Lo scopo della legge è quello di usare misericordia, non servirsi di questa, facendone un'arma di giudizio. Paolo scrive ai Romani: «Non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge», Romani 13,8. Amare il prossimo è cercare il suo bene. Il bene del prossimo sta nell'usare la legge al fine di rendere quest'ultimo libero di vivere mediante lo Spirito Santo. Vi è un episodio, avvenuto al tempo del re Ezechia, che merita d'essere ricordato. Esso, considerato quanto detto sopra, ha veramente dello straordinario, se calato nella cultura ebraica. Ezechia decise di festeggiare la Pasqua, anche se in quel momento, viste le condizioni in cui il popolo versava, non era lecito farlo. Ecco cosa leggiamo. O poiché molti nell'assemblea non si erano santificati, i Leviti avevano l'incarico di immolare gli agnelli della Pasqua per tutti quelli che non erano puri, per consacrarli all'Eterno. Infatti una gran parte del popolo, molti di Efraim, di Manasse, di Issacare e di Zabulon, non si erano purificati e mangiarono ugualmente la Pasqua, facendo diversamente di come era scritto. Ma Ezechia pregò per loro dicendo: «L'Eterno, che è buono, perdoni chiunque ha disposto il proprio cuore a ricercare Dio, l'Eterno, il Dio dei suoi padri, anche senza la purificazione richiesta dal santuario». E l'Eterno ascoltò Ezechia e guarì il popolo. 2 Cronaci 30:17-20. Il popolo ed Ezechia volevano festeggiare il Signore, volevano onorarlo e decisero di farlo anche se ciò non era secondo le prescrizioni della legge. Dio tenne conto del loro movente e li perdonò. Queste riflessioni non devono portarci alla conclusione che il fine giustifica il mezzo, ma se il fine non giustifica sempre il mezzo, a volte lo rende lecito. Prendiamo alcuni esempi. O siamo chiamati a frequentare la nostra comune adunanza, ma se incontro una persona che ha un bisogno urgente, non sono in colpa se trascuro la riunione. O siamo chiamati ad osservare il codice stradale, ma in casi gravi posso superare i limiti di velocità e addirittura passare con il semaforo rosso senza esserne colpevole. Quando i discepoli di Gesù furono condannati di avere trasgredito il sabato, Gesù ricordò ai giudei due cose. 1. Che Davide, in un caso estremo, prese dei pani che non avrebbe dovuto toccare. Ciò conferma che anche l'illecito può diventare lecito in casi estremi, che il bene dell'uomo supera la legge stessa, perché la legge è stata scritta a favore dell'uomo. Inoltre, questo episodio messo in evidenza da Gesù dimostra che egli pose il diritto al cibo prima del rispetto della legge. 2. Gesù fa notare che i sacerdoti trasgredivano il sabato e non erano colpevoli. In effetti essi dovevano svolgere alcune funzioni all'interno del Tempio e circoncidere i bambini l'ottavo giorno dalla loro nascita. Ancora una volta la legge veniva trasgredita senza rendere colpevole il trasgressore. Quest'ultimo punto mette in evidenza un'altra verità. A volte per adempiere una legge sono costretto a trasgredirne un'altra. Dobbiamo accettare questa relatività, che la volontà di Dio a volte si compie infrangendo altre leggi. La perfezione e gli assoluti appartengono solo a Dio. Lo scopo del cristiano è osservare la volontà di Dio, ma la saggezza del cristiano sarà di considerare le conseguenze della sua obbedienza. Se ciò che fa non produce grazia, cioè non produce benessere a lui e agli altri, Egli deve seriamente mettere in discussione le sue convinzioni. Non sono le nostre convinzioni ad essere giuste, ma la volontà di Dio. Colui che ha compreso cosa significhi, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, e voglio misericordia e non sacrificio, è entrato nel cuore di Dio. Gesù disse, beati i misericordiosi perché a loro misericordia sarà fatta. Matteo 5:7. Cerchiamo dunque di essere scritturali, di agire secondo la volontà di Dio espressa nella sua parola. Ma soprattutto cerchiamo con ogni sforzo di comprendere le intenzioni che Dio aveva nel dare la sua legge. Perché è una tragedia adempiere la volontà di Dio, ma fallire lo scopo per cui è stata data. E anche in questo caso compiere la volontà di Dio diventa peccato. Maggio 2000 Ellero,